Ok, ciao a tutti da Palermo, ecco, ci siamo appena arrivati qui dalla cattedrale, dopo questa iniziativa simbolica anche noi in Italia abbiamo voluto puntare come obiettivo un luogo simbolo nella città di Palermo, al centro della città di Palermo, come la cattedrale. In realtà quella è stata anche l'occasione per concentrare i vari cortei, una serie di cortei che sono partite dalle scuole e dall'università, da diverse facoltà anche come l'estero, scienze naturali, e in questo momento i cortei si sono divisi, stanno andando a bloccare i luoghi diversi della città, una parte, qualche migliaia di studenti, una di migliaia sono andati a bloccare il centro storico, più di circa 15 studenti stanno andando a bloccare in questo momento l'autostrada che passa a Palermo, per cui insomma i numeri sono anche superiori ai 15.000 di cui parlavi tu. Difficile contarli perché con tutta questa serie di cortei e con questa confusione ancora non abbiamo un'idea chiara di cosa può essere, ma crediamo di essere al centro di 20.000 in questo momento in piazza. Va bene, senti, io ti ringrazio naturalmente, se c'è qualcosa che volete aggiungere, se ci volete raccontare come si evolve questa cosa, chiamate, altrimenti vi chiamiamo noi. Lo faremo certamente, siamo sempre qua per qualsiasi informazione, ripeto, nel giro di mezz'ora saremo probabilmente a bloccare l'autostrada di Palermo, per cui ci sentiamo più tardi. Va bene, dai, allora un abbraccio, buona lotta. Ciao a tutti, ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. Allora, abbiamo sentito gli studenti di Palermo in mobilitazione, adesso vi lasciamo ancora un po' di musica e poi continuiamo con questo approfondimento sull'università.